354. Piccione coi piselli. Vogliono dire che la miglior morte dei piccioni sia in umido coi piselli. Fateli dunque in umido, con un battutino di cipolla, prosciutto, olio e burro, collocandovi i piccioni sopra, bagnandoli con acqua o brodo quando avranno preso colore da tutte le parti, per finirli di cuocere. Passatene il sugo, digrassatelo e nel medesimo cuocete i piselli, co quali contornerete i piccioni nel mandarli in tavola.